Nell'anno 1594, in Francia c'erano le guerre di religione, Enrico di Navarra, capo riconosciuto del partito protestante, costretto a convertirsi al cattolicesimo per poter assurgere al trono, ebbe a commentare l'evento osservando che Parigi valeva bene una messa. Una frase che nei secoli futuri sarebbe stata ricordata e deprecata mille volte come esempio di cinismo ideologico. Ancora nel 1929 Benedetto Croce avrebbe avuto occasione di affermare nel Senato del Regno d'Italia che ci sono persone per cui sentire o meno una messa vale infinitamente più di Parigi, perché è una questione di coscienza, figuratevi. Ma queste deprecazioni furono soprattutto da parte laica. Anche se in fondo il futuro Enrico IV non dimostrava quel gran rispetto per il cattolicesimo e i suoi riti, vedendovi un puro instrumentum regni, punto di vista da cui suppongo gli spiriti religiosi dovrebbero ritrarsi, non risulta che la Chiesa all'epoca e neanche dopo abbia mai protestato. Così non credo che nessuna madre superiora romana avrà qualcosa da obiettare alle dichiarazioni con cui Livia Turco ha reso noto alla stampa di mandare suo figlio all'asilo dalle suore. Come chi è Livia Turco? E Livia Turco è quell'importante dirigente del PDS che nella passata legislatura ha presieduto la commissione per le pari opportunità e adesso è in piena corsa per un posto di ministro. In polemica con Stefano Rodotà, mi sembra, che aveva ripreso la vieta polemica laica contro il finanziamento pubblico delle scuole private, no? Lei assicura che il ragazzino dalle scuole si trova benissimo, e lei anche. Certo, la molla per mandarcelo non è stata quella della fede, ammette. Lei è una madre lavoratrice eppure senza patente. E per andare alla scuola materna pubblica più vicina avrebbe dovuto prendere almeno due pullman. L'asilo delle suore è molto ben tenuto, la retta non è altissima, tanto è vero che è frequentato anche da bambini non di famiglie ricche, e di fronte a tanti vantaggi i pregiudizi ideologici svaniscono. Gli faranno dire un'Ave Maria in più, dice, e vabbè, come a dire chi se ne frega. La generazione politica a cui appartiene Livia Turco, si sa, ormai ha superato le controversie sui valori. I loro maggiori, da Togliatti in giù, si sono affannati in lunghe disquisizioni sulle componenti popolari del cattolicesimo, sulle compatibilità dei loro ideali con quelli del rinnovamento sociale. Persino Benedetto Croce, qualche anno dopo qualche frase su quella questione della coscienza, aveva trovato modo di scrivere un saggetto sul perché non potessimo tutti non dirci cristiani. Argomenti su cui io e gli altri, su cui io e molti altri che non eravamo precisamente d'accordo, abbiamo speso anni di polemiche, di discussioni, abbiamo consumato la giovinezza litigandoci sopra, nella presunzione che fossero problemi importanti, fondamentali ai fini della civile convivenza in una società pluralistica. Beh, per la Presidente della Commissione Pari Opportunità queste devono essere tutte sciocchezze, o per restare al livello stilistico di quel vabbè, tutte fregnacce. La civile convivenza in una società pluralista si fonda assai meglio sulle comodità delle linee degli autobus e sul livello delle rette, e se un bambino di 4 anni è costretto a dire qualche Ave Maria in più, anche se magari in famiglia gli fanno tutt'altro discorso, va bene, crescerà come la sua mamma e avrà spianato anche lui a suo tempo la strada verso il governo, perché se Parigi va bene una messa, un Ave Maria varrà bene un ministero, no?